Beh, è nata insomma per motivi diversi, molteplici. È nata perché all'interno del mio percorso personale, prima che artistico, Enrico Berlinguer, il mondo politico che rappresenta, è sempre stato un elemento segnante, fortemente attrattivo, e quindi in qualche modo sapevo che avrei voluto provare a raccontare quella dimensione emotiva, quella dimensione umana, e cercavo l'occasione giusta, che ovviamente, essendo la nostra una società piccola, l'occasione poteva essere i 40 anni, poteva rappresentare un modo per rafforzare questo percorso che invece è cominciato appunto oltre 3 anni fa. E poi c'è la voglia di confrontarsi, c'era e c'è la voglia di confrontarsi tutto e per tutto con il linguaggio del documentario, portando un po' tutti gli elementi linguistici su cui avevo lavorato negli ultimi anni, portandoli in qualche modo all'ennesima potenza. E quindi lavoro esclusivamente sui materiali d'archivio, l'esclusione delle interviste, dei tolkienelli, delle cosiddette teste parlanti, la volontà di immergere lo spettatore nella presa diretta di una cronaca, che era quella dei 7 giorni attraverso cui poi ho raccontato appunto Enrico Berlinguer, 7 giorni famosi per tutti, quelli che vanno dal malore appunto avuto a Padova durante l'ultimo comizio e poi i grandi funerali a Roma. Ecco, c'era tutto questo, e per realizzarlo, la ricerca, il lavoro sui materiali, lo studio, c'era bisogno di tempo, e quindi ce lo siamo dati, perché poi le cose, quando vogliono e hanno l'ambizione di poter raggiungere un certo tipo di obiettivo, hanno bisogno di tempo, appunto. Il linguaggio cinematografico utilizzato, quello del documentario, che cosa è consistito? Qual è stata la tecnica, lo stile che avete scelto per trasmettere quello che era il messaggio del film, del documentario, e qual è questo messaggio? Ho sempre tanta difficoltà a confrontarmi con l'idea che il cinema debba lanciare un messaggio, nel senso, sicuramente un autore, un regista cerca di costruire un racconto dove deve esserci la responsabilità anche di un significato, di un senso che si affida allo spettatore. Ci sono livelli diversi di significato, il primo proprio è anche nella forma attraverso cui è stato fatto, ovvero l'utilizzo dei materiali d'archivio e la volontà radicale, assoluta, di escludere qualsiasi tipologia di materiale originale. Il film è interamente costruito con materiali che appartengono a quell'epoca, perché la volontà era ricostruire e immergere appunto lo spettatore nella presa diretta, come se fosse lì, come se fosse dentro quei giorni, quel momento, nonostante i 40 anni di distanza. E per fare questo c'era bisogno appunto di una costruzione che, affidandosi totalmente ai materiali di repertorio, trovasse un passo, un ritmo, una drammaturgia quasi finzionale. Quindi sono alla fine i due grandi linguaggi, documentario da una parte e finzionale dall'altra, finzionale ovviamente nella scrittura, non tanto ovviamente nel contenuto, anzi all'opposto, che costruiscono il racconto all'interno del quale poi lo spettatore doveva e deve in qualche modo lasciarsi fluire all'interno della storia. E questo per me è sempre stato un po', è stata la direzione che ho sempre cercato di seguire, che ci ha portato prima con una ricerca lunghissima durata 3 anni fino a diventa gli ultimi giorni di montaggio, e poi con un montaggio serrato, una seconda scrittura, è diventato il modo per costruire questo senso che ho cercato di affidare poi allo spettatore, il senso di una vita, di valori, di sguardi, di orizzonti, di una comunità, di un paese, perché poi alla fine è il ritratto di un paese, che mi sembrava importante ricollocare oggi all'interno del nostro presente, del dibattito contemporaneo. Qual è il materiale che avete utilizzato, a chi vi siete rivolti? Il materiale non poteva essere che il materiale più famoso di quelle giornate, sicuramente quello Rai, o quello che un po' tutti noi abbiamo negli occhi dei grandi funerali a Roma, legato all'archivio del movimento operaio e a quelle immagini che erano state nell'84 realizzate dal Partito Comunista. In realtà quella storia è la storia dell'Italia, di tanti italiani, è la storia del nostro paese, della nostra comunità, e tante di questa comunità aveva voluto immortalare quei momenti attraverso macchine fotografiche, telecamere, materiali di agenzie fotografiche, tante televisioni locali, private, che avevano partecipato non solo ovviamente all'ultima giornata, ai funerali, ma in generale alla cronaca di tutti quei 7 giorni. Ecco, tutti questi materiali lentamente nel corso degli anni sono confluiti in altre società, in fondazioni, in associazioni, in alcuni casi erano andati apparentemente smarriti. Ecco, noi abbiamo fatto un lento, graduale lavoro, prima di conoscenza, di studio, di ricostruzione, poi alla fine di catalogazione di materiali che, da foto, documenti, abbiamo recuperato i bollettini originali dell'ospedale, abbiamo fatto proprio un lavoro a 360 gradi su livelli diversi, che ci ha permesso da una parte di riconsegnare in generale a tutti dei materiali inediti, che sono ovviamente materiali storici che ci parlano di una storia vera, e al contempo con quelli di costruire un racconto che è totalmente inedito e che quindi ci racconta quei 7 giorni attraverso una prospettiva tutto sommato inedita ed esclusiva. Com'è stato il risultato ieri all'anteprima? Parlo ovviamente da chi l'ha fatto, quindi non vedo l'effetto in sala, mi sembra, veniamo dall'anteprima e è stata una teoria emozionante, pubblico profondamente commosso e coinvolto e le sensazioni, le impressioni sono davvero qualcosa di profondamente segnante, ma quello che posso dire da regista è che per me c'è in quelle immagini, in quella storia, in quel racconto, c'è tanto di me per il tipo di comunità. Da bambino, perché sono nato nell'84 e quindi sono nato nello stesso anno in cui Enrico Berlinguer e quel mondo politico, quell'epoca in qualche modo è andata svanendo. Dentro quel film, fra le tante cose che c'è, ci sono anche i ricordi, perché non racconto quello visivamente, ma ovviamente ci sono le sensazioni che da bambino vivevo, frequentando, vivendo una certa dimensione di condivisione, di comunità a cui forse ci hanno abituato i nostri nonni. In quella dimensione mi sembra di percepire quel dialogo, quel confronto, quello scambio tra esseri umani che mi sembra innanzitutto caratterizzare quella storia, la storia di quell'epoca, di quel periodo, e al contempo importante per il nostro tempo, importante per quello che viviamo oggi. Ritornare a uno scambio, a un confronto, a un dialogo che ha fatto ovviamente che era importante in quegli anni, al di là delle differenze politiche, ma anche semplicemente di prospettiva sul mondo, e che oggi mi sembra assolutamente necessario. Uno scambio che dia senso proprio anche al nostro esserci, e in qualche modo in quelle immagini, in quella cronaca, in questi 7 giorni, mi sembra di respirare quel tipo di emozione. Tante persone, una comunità che al di là delle differenze politiche, di preferenze, di vedute, cerca di stare dentro un tempo, un presente, viverlo affidandosi l'uno all'altro, e questo mi sembra qualcosa di straordinario. Ieri in sala ha citato una frase di Berlinguer che non è presente nel documentario, relativa alla contemporaneità. Sì, no, è una frase che ha un po' malincuore, non è entrata nel documentario perché per esigenze narrative, che nella sua specificità rischiava di essere troppo appunto specifica, ma è una frase che mi ero ripromesso di poter utilizzare ogni volta che nel percorso del film sarebbe stato possibile. È una frase che ci racconta ovviamente dell'enorme, di quanto Enrico Berlinguer fosse radicato nel suo presente e al contempo di quanto avesse una visione lunga, di quanto desse alla sua comunità, ma in generale all'Italia, una prospettiva lunga. Una frase ovviamente che riguarda qualcosa che in questo momento ci divora, almeno chi, e spero tutti, soffrono nel vedere certe immagini e certe tragedie. Enrico Berlinguer dice, a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, dice, parlando di Medio Oriente: chiedo a Israele di ritirare le truppe dai territori occupati, chiedo il rispetto della risoluzione dell'ONU e chiedo, invoco una soluzione a due stati dove le identità, ovviamente nazionali, possono essere reciprocamente riconosciute e rispettate. Sembrano parole che potrebbero, anzi sono parole che possono essere usate in modo evidente oggi nella loro drammaticità e che ci raccontano di un uomo che con la schiena dritta ovviamente cercava di offrire una direzione con nettezza, con assoluta decisione, perché di fronte poi ai bivi della storia serve nettezza, chiarezza, precisione, e lui la offriva, e queste parole ovviamente ci indicano anche oggi una strada, no? Che forse va seguita.